ce n'è nel mio cuore di fiabe da narrare. Da narrare. Venite con me nel mio mondo fatato per sognare. Per sognare. Non serve l'ombrello, il cappottino rosso, la cartella bella per venire con me. Basta un po' di fantasia e di bontà. Era una volta, in un paesino del nord, bello a vedersi ma noioso come la morte, una ragazzina che aveva una gran voglia di divertirsi. La prima volta che era andata a ballare con un ragazzo che le piaceva, un sabato sera d'estate, era finita poi con lui in un prato, dove avevano fatto l'amore. Siccome era la prima volta, c'era scappato un po' di sangue, che lei si era asciugato con le mutandine. Ci avevano scherzato sopra e lui, che era un ragazzo sveglio, l'aveva poi accompagnata a casa con la moto, solo all'angolo. E prima di salutarla e di darle appuntamento per il sabato successivo, le aveva regalato un cappuccetto rosso, come ricordo del loro primo incontro. E siccome lei da allora se lo mise sempre perché la cosa le era piaciuta molto, finì che in paese tutti chiamarono cappuccetto rosso. Ma era veramente un paese noioso, i giovani non parlavano che della fidanzata, della macchina, del pallone e cose simili. Di far sesso non se ne parlava molto, o se se ne parlava erano i ragazzi tra di loro che parlavano di chi ce l'aveva più lungo e di storie ridicole e impossibili per nascondere l'ignoranza e l'inibizione. Le ragazze poi ne parlavano con risolini e parolette durante la passeggiata della sera. Per non parlare dei vecchi, per i quali sembrava che copulare fosse una cosa brutta e oscena da non nominare, da fare di nascosto, peggio del fare la cacca. Cappuccetto Rosso non capiva come riuscivano a sporcare con i loro atteggiamenti una cosa che a lei pareva così bella e naturale. L'unica persona simpatica per Cappuccetto Rosso era la sua nonna. E la nonna, infatti, anni prima che Cappuccetto Rosso nascesse, si era stufata del villaggio ed era andata ad abitare da sola in un casolare in mezzo al bosco vicino. E stava benissimo. Raccoglieva erbe e bacche. Si era fatta persino un orticello. Accoglieva nel suo lettone i cacciatori di passaggio. Insomma, si godeva la vita come voleva, lontano dalle paranoie della vita di paese. Cappuccetto Rosso andava a trovarla più spesso che poteva. Un giorno la mamma le disse se voleva andare a portare alla nonna certe erbe che la nonna aveva ordinato al farmacista del paese e che lui aveva finalmente trovato. Cappuccetto Rosso disse subito di sì, prese il sacchettino delle erbe e si mise in cammino. Per arrivare dalla nonna si doveva pigliare il viottolo che porta fuori dalla valletta dove il paese è adagiato e poi al bivio proseguire sulla destra nel bosco in salita per un buon 20 minuti, in tutto un'oretta di cammino. Cappuccetto Rosso si avvia che è ancora prima mattina. Bivio incontra il lupo, che è un simpaticotto seppure un po' timido, anche perché in paese non lo possono vedere solo perché è un lupo, anche se non ha mai torto un capello a una mosca, e da quel punto di vista lì è il lupo più pacifico del mondo. Cappuccetto Rosso appena vede il lupo ci fa su un pensierino, i paesani sono a lavorare nella valle, il bosco è lì a due passi e potrebbero tranquillamente mettersi sull'erbetta per una bella mezz'oretta, volendo. Quell'uccellino là sulla pianta Lela che il cantalerilera, lela che il cantalerilera, quell'uccellino là sulla pianta. Lela che il cantalerilera, l'ulfa l'amor. Oh, guarda i bei biondin che l'uselin, din, din, che l'uselin, din, din, din, din, che il fa l'amor. Oh, guarda i bei biondin che l'uselin, din, din, che l'uselin, din, din, din, din, che il fa l'amor. La tortorella giù nel boschetto, con che diletto le rilera, con che diletto le rilera. La tortorella giù nel boschetto, con che diletto le rilera, la fa l'amore. Oh, guarda che ben tu, tu la tortorella, tu, tu, tu la tortorella, tu, tu, tu la fa l'amore. Oh, guarda che ben tu, tu la tortorella, tu, tu, tu la tortorella, tu, tu, tu la fa l'amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ma il lupo è troppo timido, farfuglia qualcosa come: che bella giornata, Cappuccetto Rosso, ci vediamo. Lei, prima che lui sparisca nel bosco, gli grida dietro: sto andando dalla nonna, magari ci vediamo questo pomeriggio. Ma il lupo sarà timido in certi momenti, ma è anche intraprendente. E pensa: io corro dalla nonna e le annuncio che Cappuccetto Rosso sta venendo con le erbe che le voleva. Le farà piacere. Probabilmente sarà ancora nel lettone, mezza addormentata, perché non si alza mai presto. E non si sa mai da cosa nasce cosa. Magari mi invita nel letto, poi quando arriva Cappuccetto Rosso facciamo un bel terzetto. E via, veloce come il vento. Arriva dalla nonna, raspa alla porta, lei va ad aprirgli tutta assonnata e con gli occhi mezzi chiusi, e mentre lui le racconta di Cappuccetto Rosso, se lo tira dentro nel letto sotto le coperte. Lui non perde tempo, anche perché ne ha poco, e dopo una decina di scrolloni se ne viene come una fontana. Ma quando fa per tirarsi fuori, per riprendere fiato e ricominciare con un po' più di ordine e di attenzione, la nonna si è bella addormentata. Allora gli viene un'idea brillante. Copre la nonna con la coperta, si mette in testa il suo berretto da notte, si infila sotto con la testa fuori e aspetta che arrivi Cappuccetto Rosso. Lei arriva, bussa e il lupo fa, con la voce della nonna: avanti! Cappuccetto Rosso entra e si tira dietro la porta. Fuori c'era il sole, anche se mascherato dal fogliame degli alberi, ma dentro la stanza c'è penombra e tutto quello che Cappuccetto Rosso vede è la testa del lupo, che potrebbe essere anche quella della nonna nella falsa luce, e con il suo berretto da notte in testa. Allora si avvicina, intravede il viso del lupo e sta al gioco. Ma nonna gli fa: che occhi grandi che hai oggi! E per vederti meglio in questa luce, Cappuccetto Rosso, vieni più vicina, fa il lupo. Ma nonna, che orecchie grandi che hai! E per sentirti meglio, Cappuccetto Rosso, le bisbiglia il lupo con fare intimo. E anche perché, come ricordate, è un po' timido. Ma nonna, che naso lungo che hai, fa lei, che sta cominciando a divertirsi. Così posso sentire come odori, fa il lupo annusandola un po' vicino alle ascelle, dove Cappuccetto Rosso è sudata per il cammino fatto. Ma davvero, nonna, dice Cappuccetto Rosso, chinata sul lupo che la allaccia alla vita dolcemente, hai proprio delle braccia pelose stamattina, ma sei proprio tutta pelosa così? E così dicendo gli mette una mano sul petto e solleva la coperta scoprendo il lupo. Ma nonna, fa Cappuccetto Rosso con gli occhi che le brillano, tu hai un uccello che è anche tutto duro. Eh sì, Cappuccetto Rosso mio, fa il lupo che l'attira a sé e se la mette sopra. Cappuccetto Rosso nelle ultime settimane si era abituata ad uscire senza mutandine, proprio per evenienza come questa. Oh nonna, fa Cappuccetto Rosso, che al momento giusto s'era trovato proprio tutta bella bagnata e se l'era infilato benino. Che bello trovarti con un uccello così dolce e bello. E detto questo, incarca le gambe e appoggia le mani per togliersi il peso e potersi muovere. Cappuccetto Rosso chiude gli occhi, si concentra, si muove e ansimando: nonnina, nonnina mia bella, ma tu hai proprio i peli del lupo, gli occhi del lupo, il naso del lupo. Non è che per caso tu abbia anche l'uccello del lupo? Ma lui zitto non risponde e spinge soltanto. E vanno avanti così finché vengono estremati, si sdraiano uno accanto all'altro. Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the, get the, get the money. Money, money, money, money, money, money, money. Walking on a beach all disenchanted. Dopo un po' che riposano, senti lupetto mio delizioso, silenzioso, fa Cappuccetto Rosso. Adesso me lo puoi dire, ma la nonna dove è andata a finire? È qui a fianco a te, sotto le coperte, dall'altra parte del letto, fa il lupo, dorme. E a questo punto la nonna, la quale tra le altre cose piaceva anche guardare, salta fuori dalle coperte e fa a tutti e due: ma che dormire e dormire, ero lì tutta quieta che mi godevo lo spettacolo. Voi eravate così presi tutti e due con gli occhi chiusi che non vi sareste accorti neanche di un carro armato. Il lupo ormai era stanco e riuscì solo a farsi una risatona. Ma Cappuccetto Rosso, che stava dalla parte della nonna, le si strinse addosso abbracciandola e cominciò a baciarla, prima sul collo e poi nelle orecchie, mentre lei diceva: queste sì che sono le orecchie di nonna, neanche un pelo, tutto bello liscio. La nonna le guidava la mano tra i suoi peli, un ciuffetto nero e argentato, tutto riccioli, fino a che l'indice toccava il punto giusto in alto e il pollice entrava come in un guanto, e a Cappuccetto Rosso sembrava di toccare una lingua ma più soffice. Il lupo cominciò a prendere interesse, a guardare, anzi ci prese tanto gusto che ridivenne duro un'altra volta. «Guarda», fece Cappuccetto Rosso alla nonna, «forse diventa duro un'altra volta». «Hai ragione», disse la nonna, «mi sa proprio che ce la fa». Così anche lui, piano piano, prima con un morsetto a una spalla, poi con una leccatina a un'orecchia, finì per rientrare nel gioco. Il dito indice che si infila da dietro, forse Cappuccetto Rosso, la nonna già bella e pronta, ma quando lui si sente bello a posto e organizzato, è la lingua di Cappuccetto Rosso che lo batte in volata». E lui finisce che deve fare quello che può, dove può e quando ci riesce. Può diventare molto complicato a volte in tre. E così vanno avanti per un bel po', sino a quando non ce la fanno più e si afflosciano tutti e tre. Una gamba di qua, una testa di là, a riposare beatamente. È ormai mezzogiorno, una bella giornata d'autunno. E poi è anche sabato, i contadini lavorano duro, ma ci sono anche parecchi cacciatori in giro. Ma siccome siamo in un paese del nord e non in Italia, dove ci sono più cacciatori che cacciagione, ormai non dovete pensare ad un bosco pieno di stronzi con gli stivali e i beretta nuovi che si impallinano a vicenda e schiacciano il grilletto al primo stormir di fronda o volo di passero. Ma a cacciatori veri, amanti dei lunghi appostamenti, capaci di ore di cammino e rispettosi della selvaggina. Ma il nostro cacciatore è un tipo irsuto e di poche parole, di quelli che va in paese una volta al mese o anche meno. Vive solo con i suoi cani e non si è mai fatto una moglie, un po' perché le donne del paese non lo vogliono, che hanno paura di lui, e un po' perché lui non è mai stato capace di fare la corte a una, perché è troppo selvatico. Ma da quando la nonna è venuta a stare qui, sin dalla prima volta che è passato, lei se lo è tirato nel letto senza tanti discorsi e moine, e adesso, ogni volta che passa dal bosco della nonna, viene a prendersi quello che lui crede sia suo. E così, dopo aver bussato alla porta almeno 2 o 3 volte e non aver ottenuto risposta perché nonna, lupo e capuccetto rosso dormono della grossa, lui apre la porta e vede. Quando i suoi occhi si posano su quello spettacolo, gli si mozza il fiato e gli viene un groppo in gola grosso come una mela. È il groppo della gelosia e gli fa male. Loro sono lì, tutti e tre, in pose dolci di abbandono, dopo tutto il sesso che hanno fatto. Nonna, lupo e cappuccetto rosso, abbracciati e avviluppati tra loro nelle belle posizioni dei corpi che hanno trovato il piacere. E ora riposano. È uno spettacolo che avrebbe addolcito chiunque. Chiunque meno il cacciatore, lui non si sentiva commosso per niente con quel groppo in gola, era furibondo. Con 2 lunghi passi raggiunge il letto, impugna il fucile dalla parte delle canne e lo alza sopra la testa come una clava per darlo sulla testa del lupo. Ma rimane con il fucile sospeso a mezz'aria, paralizzato dalla rabbia che ha in corpo. «Ma guarda sto porco!» sibila, stringendo le canne del fucile così forte che le dita gli tremano. «Ma guarda sto porco, brutto, vizioso, stupratore, maledetto, pervertito porco! Il lupo! Fosse stato almeno un altro cacciatore!» pensa il cacciatore geloso, furioso e anche razzista. «Il lupo, quel porco del lupo, gli ha violentato la nonna e anche Cappuccetto Rosso, così tenera, con le tettine piccole appuntite, sdraiata per traverso tutta nuda, con le gambe un po' divaricate, che il cacciatore può vedere con l'angolo dell'occhio, attraverso i peli, il gonfio delle labbra rosa arricciate, aperte e umide. Le dita tremanti del cacciatore si stringono forte attorno alle canne del fucile. I muscoli gli si tendono, sta per calare il colpo mortale. In quel momento Cappuccetto Rosso esce dal sonno e dal sogno. Apre gli occhi tutti legati e si stira allungando le braccia e le gambe. I seni si gonfiano e la gabbia delle costole preme in fuori. Nel suo sonno, sogno, pieno di panne montate e cose deliziose, è rientrata una nuvola nera a disturbare. Sbatte gli occhi 2 o 3 volte, ma non riesce a orientarsi, ancora com'è dentro il sogno e i ricordi delle delizie da poco passate. Poi in un attimo vede il cacciatore, si tira su di colpo a sedere e lo guarda in viso. Ma chi è questo omaccione piantato lì sulle 2 gambe? Perché lì? Cos'è lì a fare? E vede il fucile sopra la sua testa, imbracciato per le canne, pronto a calare sulla testa del lupo. No! Deve fermarlo! Cappuccetto Rosso si butta con un guizzo rapidissimo contro il braccio alzato del cacciatore. Ma sei matto? Gli bisbiglia. Devi essere matto, ma cosa vuoi fare? Non avere paura, le fa il cacciatore, non aver paura, non voglio farti del male, non voglio fare niente di male a te. Non vuoi fare del male a me, dice Cappuccetto Rosso, ma stavi per uccidere lui. Certo che lo voglio uccidere, fa il cacciatore. Oh, stupida di una ragazza, dopo quello che ha fatto a te e alla nonna, per forza che lo devo uccidere, merita di essere ucciso. No, grida Cappuccetto Rosso, no, non ha fatto proprio niente di male, è bravissimo invece, è stato proprio bravo. Tu non lo devi toccare, lascialo stare. Come sarebbe a dire, fa il cacciatore, sempre furioso ma un po' confuso, come sarebbe a dire non ha fatto niente di male? È qui da vedere voi due, tu e la nonna, tutte e due violentate da questo maledetto porco di un lupo. No, fa Cappuccetto Rosso con le lacrime che le scendono dagli occhi, tu non capisci niente. A noi andava proprio benissimo ed è stato bello con lui, bellissimo. L'avete voluto voi, fa il cacciatore col fiato mozzo e la rabbia che gli riviene, ancora più violenta di prima. Allora vi ha sedotto e vi ha portato al punto che voi lo volevate, il depravato maledetto merita di essere ucciso 2 volte. Il lupo, nonostante il pericolo incombente sulla sua testa, continuava beatamente a dormire, e così pure la nonna, che non aveva mosso un dito durante tutto il periodo dell'alterco tra il cacciatore furioso e Cappuccetto Rosso disperata. E dopo il primo momento d'ira del cacciatore e di disperazione di Cappuccetto Rosso, il loro silenzio di dormienti finiva per calmare i 2 altercanti e far loro abbassare la voce. E poi la situazione, per quanto tragica, aveva anche il suo risvolto buffo. I due dormono tranquilli e avviluppati sul letto, Cappuccetto Rosso tutta nuda e calda di letto e d'amore, aggrappata al cacciatore e implorante. Lui, grande e grosso maccione, col fucile che vuole usare come una clava per rompere la testa al lupo. Cappuccetto Rosso gli si è ormai avvinghiata addosso e non lo lascia, per paura che lui riesca a colpire il lupo. Piano piano riesce a fargli abbassare il braccio omicida. «Ma perché lo vuoi uccidere?» domanda ora Cappuccetto Rosso, con voce meno spaventata e più dolce, mentre cerca di togliergli il fucile di mano. Nella lotta tra il cacciatore vestito di tutto punto, persino il carniere a tracolla, e Cappuccetto Rosso, lui, sentendosi avvinghiare col petto di lei che preme sul suo petto, il braccio di lei teso ad afferrare il fucile e il corpo di lei buttato su di lui per fermarlo, comincia a sentire un altro stimolo, più dolce e meno terribile, che gli scioglie il nodo in gola e lo fa invece ingrossare e indurire sotto lo stomaco, nell'uccello che non sa niente di gelosie e di furie omicidie e conosce solo la gioia. Get the money, Mr. Potato. Get the money, pay the Eskimo. Quando Cappuccetto Rosso si accorge dell'uccello duro contro il suo ventre e che la lotta sta per diventare diversa e meno terribile e che il cacciatore ha gli occhi che gli brillano di voglia, si tira via di botto e fa al cacciatore. Perché volevi uccidere il lupo? Lui resta lì come un allocco, mezzo con la voglia di picchiare e mezzo con la voglia di copulare, con quei corpi sul letto e Cappuccetto Rosso fresca da toccare e non sa più che fare e che dire. Farfuglia per un po' e un po' anche arrossisce, poi fa: ma tu ci stavi con me prima, ci stavi, insomma ti piaceva, voglio dire, se io non volevo uccidere il lupo ci stavi? E Cappuccetto Rosso, ormai tranquille, con gli occhi pieni di malizia che gli balla sulle palpebre, gli si avvicina, gli butta le braccia intorno al collo e gli fa: ma certo che ci stavo, come dici tu, di sicuro, però non mi faccio mica amare da uno che vuole uccidere la gente. Ma io non l'ho mica ucciso, fa il cacciatore, che ormai è diventato durissimo e spinge un po' brusco e impacciato contro la pancia di Cappuccetto Rosso. Guarda che è lì ed è ancora vivo. Sì, però se non mi svegliavo io in tempo. Cappuccetto Rosso lo sentiva duro sotto i pantaloni ruvidi che le sfregava la pancia e anche lei sentiva la scarica. I peli cominciavano a solleticarla e si stava inumidendo un'altra volta. Lui le mette una mano dietro per tirarla più vicino e un dito riesce ad infilarsi nella fessura da dietro. E finalmente Cappuccetto Rosso si lascia mettere sul letto, ma si siede nel bordo per non svegliare il lupo e la nonna. E mentre il cacciatore, a mezz'aria, che le viene bene perché lui è uno di quelli che fa lo stantuffo come tutti gli omotti che fanno i virili e bruti perché sono impacciati e poi quando vengono al dunque non fanno che spingere, e dopo 5 minuti si spengono come una locomotiva a vapore che si ferma, manda 2 sbuffi di fumo e finisce lì. Ma Cappuccetto Rosso lo muove e lo smuove per benino finché lui non le casca addosso e con la diversa posizione trovata riprende di lena. È in quel momento che si sveglia il lupo, che vede Cappuccetto Rosso e il cacciatore nel mezzo dell'impresa. E niente sospettando del pericolo che ha corso e della brutta scena che ha preceduto questa, più bella, decide di andarsene fuori a prendere un po' di fresco. La nonna continua a dormire. Dopo una mezz'oretta il lupo rientra e Cappuccetto Rosso adesso è finita sopra il cacciatore. Allora il lupo, per non dargli fastidio, si mette sull'orlo del letto e gli sta a guardare. Loro non se ne accorgono, presi come sono, ma dopo un po' lui si stufa di stare a guardare. E poi è anche curioso, quindi domanda a Cappuccetto Rosso: ma chi è che hai sotto? Ma per tutta risposta Cappuccetto Rosso fa un paio di gorgogli incomprensibili sul collo del cacciatore e volta la testa per metà, un momento, giusto per sorridere al lupo. Ah, fa lui, ma sei proprio completamente spompata! E così dicendo si allunga ad accarezzarla sulla schiena. Sei proprio spompata, ma spompata del tutto, Cappuccetto Rosso! E carezza con la punta delle dita le natiche sudate. E così facendo sfiora le gambe del cacciatore che sta sotto. «Tira via le zampe, brutto porco!» grida il cacciatore. Il lupo, confuso, ritira la mano. Non era abituato ad essere trattato con insulti e male parole dai suoi compagni di letto. E quindi non capiva, non si rendeva conto della situazione. «Non sono un porco», disse alla fine, dopo qualche attimo, con voce un po' triste e un po' risentita. «Sono un lupo». «Ma che cosa credi di stare facendo?» dice Cappuccetto Rosso al cacciatore che le stava sotto. «Ma sei matto a cacciarlo via così? Ma cos'hai addosso?» «Solo io ti posso toccare», fa il cacciatore con un grugnito. E si tira Cappuccetto Rosso addosso, incollata a lui. «Palle!» fa Cappuccetto Rosso con un moto di stizza. «Certo che lui mi può toccare. Mi può toccare quanto vuole, se piace a me. E anche la nonna mi può toccare. E tu puoi toccare anche la nonna, se vuoi. E se le piace. Ma piantala di fare il geloso, perché questa storia adesso mi ha stufato. Sei proprio ridicolo a fare così come fai tu. Non ci guadagna nessuno e non ci gode nessuno». «Ma mi ha toccato l'uccello!» fa il cacciatore ancora ingrugnito, ma già un po' meno. «Ah!» fa Cappuccetto Rosso. «Ti ha toccato l'uccello? Bello! Allora hai ancora meno da fare il geloso, perché vuol dire che gli piaci anche tu, no? Ma è una cosa brutta, una cosa sporca che non si fa!» fa il cacciatore tra i denti. «Palle, palle, palle!» fa Cappuccetto Rosso, che si era proprio stufata del cacciatore che non capiva niente. E così dicendo smonta da lui e si tira dalla parte del lupo e va ad accarezzarlo. Il lupo era già semi-eccitato e con Cappuccetto Rosso che lo accarezza diventa duro come prima. Prende delicatamente tra le labbra mentre il cacciatore sta a guardare e freme. Ma non dice niente. Cappuccetto Rosso ci mette sempre più gusto e finalmente la nonna si sveglia. Quando vede Cappuccetto Rosso col lupo e il cacciatore a guardarli, stralunato, lo invita a venire dalla sua parte, ma lui resta lì a guardare, affascinato. Allora la nonna va a unirsi ai due. Il lupo si mette sopra la nonna, mentre Cappuccetto Rosso si siede sul viso della nonna per farsi baciare. E mentre sono tutti e tre che se la godono, il cacciatore continua a ripensare alla scossa strana che ha ricevuto quando il lupo lo ha sfiorato. Ne è rimasto scosso e la sua reazione, è una cosa sporca, aveva detto, lo aveva preso alla sprovvista. Ora è preso da un fremito che nemmeno lui capisce e si alza, si va a piazzare dietro al lupo che sguazza nella nonna e senza nessun preambolo o avvertimento lo prende. Il lupo, dopo il primo momento di sorpresa, sta al gioco e aggiusta il suo movimento a quello del cacciatore che alla fine esplode. Ma una volta venuto, il cacciatore ridiventa antipatico. Dice che gli fanno fare cose che lui non vuole fare, che è tutta colpa del lupo e finisce per prendere il fucile un'altra volta. Vuole ucciderlo. «Maledetto, maledetto!» fa Cappuccetto Rosso. «Avevi promesso che non saresti più venuto fuori con queste storie di uccidere. E adesso ricominci, peggio di prima. Hai ancora il coraggio di ucciderlo, ma tu sei un mostro. E questa è la maniera di ringraziarlo per averti fatto godere». Ma il cacciatore è sempre più furioso e scoppia un casino. La nonna si mette anche lei a gridare contro il cacciatore. Il lupo, che non riesce assolutamente a capire come il cacciatore, dopo esserselo goduto ed essere venuto dentro di lui, possa ancora parlare di uccidere che ancora non è asciutto. Gli mostra i suoi denti che sono formidabili per difendersi dall'attacco. Il cacciatore tenta di imbracciare il fucile e sparare. Ma tutti e tre, Cappuccetto Rosso, nonna e lupo, gli saltano addosso, gli tolgono il fucile e lo bloccano. Il cacciatore, quando sente un'altra volta il pelo del lupo addosso a lui e le tette, lo stomaco della nonna e di Cappuccetto Rosso, ricomincia a rizzarsi. Ormai tutti e tre lo hanno messo sotto e lui non si difende nemmeno. Il lupo gli mordeva la spalla e lo faceva impazzire. «Lupo, lupo, mordimi l'uccello, lupo!» faceva. E non si capiva più se era ancora arrabbiato o se era solo diventato rapato. «Dai, dai, lupo!» gridava. «Mordimi l'uccello, guarda com'è bello, dai!» Ma Capuccetto Rosso s'era alzata, aveva preso il fucile e glielo puntava addosso. «Non mi uccidere, Capuccetto Rosso!» diceva lui. «Non mi uccidere, non lo farò più, davvero, Capuccetto Rosso! Questa volta ho capito, ti prego non sparare!» «Sei solo un rompigioco», gli dice Capuccetto Rosso, «e non ci si può più fidare di te». «No, no, credimi, Capuccetto Rosso, ho imparato la lezione, non sarò più geloso, neanche un po', anzi, prendi il fucile e buttalo nel pozzo che sta fuori». «Lo faccio davvero», dice Capuccetto Rosso, «se non altro per toglierti la tentazione». E detto fatto, uscì di corsa e buttò il fucile del cacciatore in fondo al pozzo. E con il fucile finì in fondo al pozzo anche la gelosia del cacciatore, che da quel giorno imparò a godere con tutti e a non fare male a nessuno. A mille ce n'è nel mio cuore di fiabe da narrare, da narrare. Venite con me nel mio mondo fatato per sognare, per sognare. Ed eccoci qui, ricordo che questi sono i microfoni di Radio Onda Rossa, 87.9 la frequenza, il nostro numero di telefono è 06 49 17 50, la nostra email ondarossa@ondarossa.info, la radio senza pubblicità perché libera da padroni e padrini, la radio che si autofinanzia, per questo ricordo il numero di conto corrente postale, scusate il fischio, 61 80 4001, oppure potete visitare il sito dove troverete per sottoscrivere una voce apposita, oppure potreste anche venire qui a trovarci presso la nostra sede in via De Volci 56. Oggi martedì 1 febbraio, così come avete sentito, ho voluto dedicare questo spazio all'erotismo con la lettura di questa favola, quella di Capuccetto Rosso, che è stata riscritta con intenti chiaramente didascalici e liberatori. Spero che vi sia piaciuta e che soprattutto non vi abbia indignato. La scrive una donna di cui non ne conosciamo il nome. Il fatto che sia una donna a scriverla è importante. La pornografia volgare, maschilista e fascista e anche razzista nei confronti delle donne è tutta comprensibilmente scritta da uomini e per uomini. Invece quando si entra nel campo opposto, quello dell'erotica come gioia di amare, atto sessuale come comunicazione liberatoria, si trovano per fortuna finalmente anche le donne. La storia, come dicevo, appunto è un classico della letteratura didascalico erotica e proviene quindi dalla Svezia. L'uso della fiaba popolare di Capuccetto Rosso, che come tutte le fiabe che vengono dal folklore popolare sottendono significati erotici e antiautoritari, spero sia stata sublime per tutti voi ascoltatrici e ascoltatori. Spero che vi abbia accompagnato allegramente una favola tratta da un libro ha un titolo che è Oltre la gelosia e l'amore, è stato edito nel 1971 per la Savelli. Il libro è rimasto in vendita per soli 2 giorni, poi l'editore è stato costretto a ritirarlo, pena una serie di incriminazioni per aver violato la morale e il buon costume. Si svolse addirittura un processo nella terza sezione penale del Tribunale di Roma, Piazzale Clodio, tribunale che purtroppo conosciamo fin troppo bene. Oltre la gelosia e l'amore contiene anche 2 saggi sulla liberazione dall'ossessione possessiva della gelosia. L'altro racconto ha per titolo Dopo la coppia, cosa? Il libro contiene anche 100 flash che trattano dell'erotismo in generale e nello specifico appunto della gelosia. Ovviamente questo libro è introvabile, se lo trovate bene fatemelo sapere, e poiché come ho detto è stato ritirato dalla vendita e per altri motivi intuibili. Io l'ho trovato per caso e per gioco in una bancarella nel sud d'Italia e da quel giorno per caso e per gioco ho perso incredula la gelosia. E mentre Sant'Agostino, che aveva scritto chi non è geloso, non è innamorato, probabilmente in questo momento si starà ribaltando nella tomba, spero che non vi ribaltiate anche voi, io vi dico che hanno ammazzato l'amore per poterci vendere il sesso, sesso come possesso. La mia donna, il mio uomo, i miei bambini, la mia casa, la mia macchina. È chiaro che in un mondo così invidia e gelosia sono scatenate. Liberamente tratto da Oltre la gelosia l'amore, ancora un caloroso saluto a chi è per qualche motivo privato di libertà. Questa voce vi lascia con un po' di musica in attesa della prossima trasmissione.